abito qua. Adesso qua, ma abitavi a Fiume? E con mio marito, i miei figli, ho tre figli e due nipoti. È dal 17 di novembre che sono qua e mi sono trovata bene. Ho fatto questa malattia che mi ha portato a non parlare più. E certe volte, direi tante, mi fa venire il nervoso le canterie patrolonie. E poi dico, se vive una volta sola, c'è una possibilità. Mio marito vive in casa mia e pertanto io vivo qua. E non voglio dirvi come sarà. Andiamo avanti lentamente. E tenetevi la salute perché è un bene prezioso. E qualche volta quando ci si accorge abbiamo perso il treno. Ho 61 anni e con la pensione, sono andata in pensione nel 2014, ho fatto un anno di pensione, poi sono scesa in malattia e stiamo lavorando per recuperare ancora, soprattutto di mettere i tasselli dove mancano. Ieri pomeriggio, era lunedì, c'era qua Andrea, mio figlio, che viene qua a pranzo con me, così mi fa compagnia. E verso ora di cena ho avuto una piccola crisi alle gambe. Mai mollare. Anche a te. Mai mollare. Avanti, sempre. È così bella la gioventù. È la roba più bella che c'è, secondo Cosa me. Facevi durante la tua gioventù? Niente, andava lì sul mondo con mia zia Clelia e mio zio Beppe, che veniva il fratello e sorella di mio papà, no? E avevano tre masi. Allora, Stavel, la casa di Metz, che era Calvera. Stavel che l'ho anche messa. Ecco. E tu dove eri a Stavel? Non di una casa da Bersmelle tanti anni. Sì, qual Stavel? Alto o basso? Basso. Ah. E allora le robe le erano diverse, no? E chi lì è da Iavre, chi lì è da Murtasca, chi lì è... Come i capisci, è dall'Austria, che robe, ne? Il mondo è cambiato tantissimo. Bene. Penso che, che possiamo fargli un applauso. No, grazie. Voi. No. Grazie, bravo. C'è sempre qualcosa da imparare. Da chi? Da sempre. Ed è molto importante, specialmente dei vecchi. I vecchi chi sa di più. Hanno una storia di una volta i vecchi erano i saggi. Una volta era proprio i saggi. Oggigiorno purtroppo sono un attimino, anche perché secondo me quello che è venuto così a crearsi di nuovo è tutta questa tecnologia che loro non conoscono. Ecco. Proprio questa tecnologia, che assolutamente va bene per certi aspetti, importante che non diventi una tecnologia patologica, sempre sto telefonino in mano, gioventù. Che posto, telefonino avevamo noi? Appunto, non era telefonino, neanche il telefono normale. Oh.